radio mi ha riconosciuto, ho nascosto anche il bip. Crocro, come si dice. Siamo qui, giornata di commissioni, analisi per mamma. Finalmente mi posso spaparanzare sul divano e basta, starmene anche all'ascolto. Benemera, benemera. Oggi stavo guardando su eBay e ho trovato una 5 ottavi, però non mi ricordo se è la Game Master, la Energy o la Sigma Venom. È possibile? Sì, è possibilissimo, Sigma Eurocom, però hai radiali troppo corti. Cioè, un minimo di piano di massa glielo devi dare, non li puoi mettere radiali di una X30. Io ho mai visto 5 ottavi con radiali così corti. Quelli della Energy sono 1,30 m. Aspetta, sto qua su internet, devo beccare l'inserzione, posso essere più preciso. Vabbè, lo faccio di là. Allora, Venom 5 ottavi, stazione base, leggera, preparata, 5,8 metri. Allora, vediamo un po'. Aspetta che sto aprendo la cosa. Allora, antenna Venom 5 ottavi, solo 3,5 kg. Vediamo un po'. Sì, praticamente hai radiali, tre radiali molto corti. Eccomi, sono tornato, ho preso anche lì. Vediamo un po' com'è questa antenna, io l'ho già vista, mi pare che forse Daniele doveva scegliere tra la Energy e la Sigma Eurocom, o comunque aveva chiesto informazioni su quell'antenna. E per i radiali non mi ispirava. Sì, questa è Venom 5 ottavi. Sì, è radiale praticamente molto corti e sono leggermente piegati. Esatto, però mi sembrano un po' troppo corti, cioè glielo vogliamo dare un minimo di piano di massa. Già tre radiali mi sembrano pochi a me. Vabbè, comunque. C'era un break, avanti il break. Sì. Ciao Antonio, buonasera, ben entrato. Questa voce è un po' sottomessa, proprio molto bassa, che succede? Mi senti molto bassa, ho abbassato perché la vedo che la è troppo alta. Vabbè, ce lo sai, noi qua a 10 ci abbiamo fatto l'orecchio a sentire modulazione più alta, no vabbè, ti ho sentito come con un tono di voce come se stessi parlando per non disturbare qualcuno. No, sto parlando di parecchio perché una volta ho fatto parlare normalmente, ma non è stata una voce, quindi, vabbè, modulo da due stazioni differenti, Bene, Mera, guarda, sono entrato adesso e che si è a me c'è Marco Condor. Sì, ciao Antonio, sì, prima era molto bassa la modulazione, volevo solo l'importante. Allora, l'antenna ce l'ho qui, sì, e poi è molto simile alla Energy. Ho questi radialetti di 30 centimetri, mezzo metro, non lo so, vabbè, non mi ispirano molto. Forse meno, però non vorrei che fossimo un po' al di sotto della soglia limite. Scusate un attimo, ciao Antonio, Marco e Gianni, dai, ci sentiamo dopo, sto uscendo, vado in divorzio e torno subito, fra un po'. Ciao Antonio, mi hai sentito? A dopo. Ciao Giulio, caro, ti ho ascoltato, ma dopo che sei anche tu. No, infatti non c'ero svolta, sono arrivato adesso in questa stanza e ho acceso e ho sentito a te, a Gianni e a Marco, per cui ti ho voluto salutare a te e agli altri. Dai. Comunque dai, devo andare nel negozio a comprare la frutta, dopo ritorno fra non so, un quarto d'ora, 20 minuti, se ci sei ancora ci sentiamo di nuovo, ok? Riprendi Antonio, dai, io vado intanto. Bene, bene Giulio, grazie per i saluti. Grazie a tutti, è stato un piacere sentirti, ci sentiamo all'inizio dopo. sì, già, sto guardando solo le foto, questa antenna qui, della Sigma Eurocom inglese, non è Sigma, quella Sigma che avevamo noi in Italia, la storica Sigma. Poi, se il prezzo vale la candela, non so che dirti, aspetta che guardi il prezzo su eBay. Sì, io sono qua su eBay. Antenna Phenom, 5 ottavi, patapim patapan, tre radiali, lunghezza 5,80 m, guadagno adatto per 4,5 dB, peso 3,5 kg. Se posso darti un consiglio? Tutto fa brodo, come si dice, tanto hai guadagnato. Comunque, giusto per essere precisi, sto solamente guardando. È una grandissima gaggata. Sì, è una gaggata, perché non esiste per niente al vento. Il tuo vento si rimane in terra. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Sì, vabbè, sto solo guardando. Ho fatto una ricerca e ho visto questa antenna e niente, insomma. Lascia perdere, ciao a tutti, buonasera, sono qua, sentiamo dopo. Ciao amore, non mi saluti. Sì, Anto, ti saluto e ti abbraccio. Bacio anche a te, caro. Ehi, a cappello, smetto, fatto lei quella ratatore, la massa di tenevaia. Che sei giù fatto, che non c'ho tempo neanche per respirare. No, non ho tempo neanche per respirare. Ah, io faglio, cazzo, deve provare quella radio, Te lo farò, guarda, se domani mattina c'è tutta la mattina sta libera. Dai, faglio tanto crescere, davvero, io non ci vedo a fare quelle cose, se no le avrei fatto io, ma me l'aveva fatto Luca, figurati. Oh, no, io lo faccio, mi ha detto che comunque non c'era così tanta premura, vabbè, ha dato ieri, non è che... Ah, io pensavo che l'avessi dato prima, vabbè. Ehi, ma già gliel'ho detto io, sicuramente non è che te lo fa in fretta, perché Antonio è sempre incasinato, comunque già te lo fa. Va bene, a dopo, lascia perdere l'antenna, se devi comprare un'antenna fai il sacrificio, te l'ho già detto, ti metto un'antenna come Cristiano. Quell'antenna lì a Mauro, lì punti, gliela spezzata in due, te l'ho già detto. Quell'antenna lì, proprio quella, con i radialini corti, gliela spezzata in due, tagliata completamente. Ma sì, Claudio, te la faccio con un amico mio da poco, che era di amatore, che era Trapani, e l'ho preso, ma la 27, e se l'ho piantata io sono la macchia al mare, dice, tu il complimento me l'ha spezzata in 12. Sì, sì, a Mauro, lì punti gliela spezzata proprio, c'è l'aggancio, nuova era, ben accordata, tutto funzionava, che era una meraviglia. Della spezzata, perfetto. Va bene, dai. Ok. Riprendi Gianni il Profeta, ci sentiamo dopo, passo e chiudo. KK, sì, vabbè. Adesso abbiamo qualche riscontro, sì, vabbè. Comunque, per guardare già è ancora gratis. Perlomeno certe cose. E niente, no, vabbè, giusto. Sai, giusto anche per passare un po' il tempo, ho cliccato antenne 5 ottavi di quelle stacco barato e mi è uscita quella, e basta. Poi Marcolino, non so se sei in ascolto, su eBay ce n'è una 5 ottavi nuova, è stata aperta la scatola, però non è stata mai piazzata. Ehi, ciao anche a Claudio. Poi queste le mandano dall'Inghilterra, dal Regno Unito, non forse che sia pure più sottile della Energy, alias Sirio GPE o GPS, non mi ricordo, non lo so, non... poi se ti hanno detto già che si troncano, vabbè, se viene il vento del 2008 si tronca anche questo, sono sicuro. Sì, mi ricordo era i primi di settembre del 2009, durante un pomeriggio, cazzo, in giro di mezz'ora si è fatto praticamente buio, tipo notte, cazzo, ed è successo di tutto, cazzo, l'indomani, cazzo, c'era il bilancio, non so cosa tutta scoperchiata quel vento, cazzo, a bancare da un amico, da un... l'azienda di un amico mio, cazzo, praticamente gli ha scoperchiato il tetto, l'hanno trovato, cazzo, 50-70 metri più avanti. Figurati. Vabbè che, a seconda di dove ti trovi, se sei in zona di Bora, hanno troncato, il vento ha troncato Game Master, quella lunga, ha troncato anche i Max 2000. Se ti arriva la botta forte non c'è antenna che tenga, in verticale, capito? Rotto lo stilo proprio. Vabbè. No, poi dall'Inghilterra, non si sa se c'è la dogana o non c'è la dogana, non dovrebbe esserci ancora, finché non escono dall'Europa questi inglesi. Kappa, vabbè. Poi il vento, cazzo, e fascia buoni, cazzo, voi che non sfasci l'antenna. Cazzo, se ne fascia le cose, cioè nel senso. Quindi figurati se ci mettiamo a vedere quali sono i risultati del vento, quindi cazzo, un'antenna è proprio, stiamo parlando di quisquiglie. Era giusto per curiosità, stavo così controllando e ho visto questa antenna, è stata aperta la scatola, sono quelli sbagliati, cazzo. È praticamente è nuova, ma installata ad un buon prezzo. E poi nella ricerca ho trovato anche una mantova usata. Allora prendi quella, perché a noi ce ne è sradicato gli alberi, ma la mia mantova non l'ha sradicata. E neanche la mia. La migliore antenna al mondo, cazzo, ma lo dite. Lui lascia verde, tutte le altre è noia. Tanto chissà perché non ho smesso di fabbricare, che noia. Cosa ne so, però mi sembra che abbia fallito l'azienda, però raffiche di vento a 70-80 km orari, anche a 90 km orari qua, nella mia zona li ha sradicato alberi, ma l'antenna mia è sempre bella dritta, senza diranti bu. Guarda, io in campagna da me mi ha piegato il passo di un'altra lì. No, manco qua l'ha piegato a me, io c'ho un tubo da un pollice d'acqua di quelli zingatti e manco il pelo del curica, ed è a 40 metri d'altezza, quindi figurati tu, non voglio prendere vento. La mantova ci vuole per essere tranquilli e sereni, tutto il resto è noia. Ma io l'altro giorno ho trovato uno che stava andando a 40 euro, ancora in buca. Quando gli ho mandato la mail, l'ho appena giudicato, ma vaffanculo. Lo so, io l'ho pagato 80, la mantova 1, figurati. 80 euro nuovo, residuo di magazzino. Se ne trovano ne prendo un'altra, ma la metto a parte anche, non si sa mai. Però è la migliore antenna che c'è per noi CB. Va bene, continuate. Comunque Claudio, in alternativa, qual era la più grossa della Sirio? La 827 oppure la Sirio 2000? Io ne vedo due. Proprio peso 5 kg tipo mantova, però ne ho due qua, una quel famoso lampioncino trasparente, l'altra ha la bobina nuda e cruda tipo mantova. Noi avevamo quella col bicchiere praticamente, quella lì, e anche quella è una buonissima antenna, mi è durata un sacco di anni, poi l'avevo smontata e avevo messo la mantova 5. Però anche quella è una buona antenna, nonostante sia molto più fine della mantova, però è molto resistente e molto buona. Comunque io invece sto utilizzando una che avevo fatta una stella 16 radiali, che con la mantova come grossetti e quella 16 radiali, la SIRT, la super, no, come si chiamava, la super, adesso non me lo ricordo, comunque c'era quella 8 radiale e quella 16 radiali, se c'erano radiali colorati celesti mi sembra, quella lì, quella era buonissima antenna, funzionava molto molto bene, però poi l'avevo tolta, avevo messo la mantova e lì non ho cambiato più, capito, vabbè, riprendi Marco. La Super Lem per caso? Esatto, la Super Lem. La Super Lem, la cosa del genere, si chiama Lem. entrare, solo che ce n'era una 8 radiale e una 16, con la 16 non ricordo, solo qua una definizione di persona che si chiama Stella. Sì, quella lì. Ehia, ma che voi sappiate, la Sirtel esiste ancora o ha chiuso anche quella? Stanno chiudendo tutte, mi dì. Sigma, Lem, non so se faccia più nulla. Sirtel, adesso Sirio sopravvive, ma campa molto dal mercato estero. Tipo in Polonia va molto forte la 27. Cioè, vedi un bel gente col baracchino in macchina, cosa che non vedi più qua. Beh, diciamo, ho dovuto abbandonare anche loro, perché comunque se non c'è il mercato, cosa tanti anni fa compravo da Elettronica, da Radio Market, da Guidetti, da Bianconi, no? Che nessuno, ma io ti ho chiuso la settimana scorsa. Ehi, comunque già, questa qua, questa Siri 827, pesa staffa e tutto, 6 kg. E lì, mamma mia, se metti il palo poco poco alto, converrebbe tirantare, oppure mettere un palo molto basso, non lo so, non lo so, io non mi pronuncio lì. Io ho voluto antenna leggera per non tirantare, palo basso, antenna leggera. Quando si sfascia, buon viaggio, mi non ne metto più. Sì, vabbè, alla verità, adesso c'è questa. E ci viaggiamo questa, che va benissimo. Volevo dire un'altra cosa. Stavo guardando le canne da pesca qua su eBay, quelle da fiume, o canne da lancio, roba del genere. Non sono economiche. Lì non ti so dire nulla, che tipo di canna da pesca ci voglia, un certo tipo, una certa robustezza, boh. Al solito a me piace l'alluminio, non mi piace né la fibra di vetro, né canna da pesca, fenolico, quello che è. Scelta personale, naturalmente. Sì, sì, sì, ma anche quelle lì le stavo guardando, giusto per scegliere, buttare l'occhio a vedere cosa costano qua su eBay quelle canne lì, e già se le fanno pagare addirittura nella dicitura in un sito c'è scritto canna da pesca per da fiume per non so cosa, ma devi, e poi mi pare che era tra parentesi ottimale per le costruzioni di antenne. Sì, sì, perché tra CB e radiamatori, no, adesso non so chi sia stato l'ideatore iniziale, pare fosse un radiamatore che aveva fatto una delle prime canne da pesca per le bande HF. Claudio, te lo ricordi chi erano? Mi sfugge il nome. No, io ho conosciuto quello che ha fatto il dipolo, che aveva il nominativo del dipolo che ha costruito G5RV. Mi sembra che era, non ricordo che provincia era. Quei tanti nomi gli hanno dato, non mi viene, dai. Tipo canna da pesca, al solito alla base non so cosa ci mettevano, non mi ricordo, vabbè. Poi, sì, non hai molta scelta di marche. Poi Midland, una cosa, la 5 ottavi Energy e la 5 ottavi Sirio sono uguali, solo che la Sirio ti dà una gabbietta antistatica in punta già. Sono due cerchi messi, una gabbietta antistatica, se faccia non lo so, tanto è cortocircuitata a massa, che ci sia o che non ci sia, non lo so. E la Sirio inoltre ti dà delle specie di, come definirle, di aggeggi in plastica per isolare le sezioni dello stilo dove metti la vite, però secondo me la cosa migliore è sempre un altro autovulcanizzante proprio per fare la tenuta stagna. E vabbè, comunque se la mantova è tenuta bene, basta che non sia carteggiata, che ne so io, perché alla fine poi quando se ne va via lo strato protettivo, la zincatura dell'alluminio, cioè si ossida subito, mi sei nudo all'alluminio. Sì, comunque non serve a niente quelle affari che dicono loro, è come con la farina del plastica che mettevamo sulla vanta per lo scaricatore di massa, è plastica, cosa poteva sentire? Sì, esatto, quella stellina che io vedevo su internet, ero convinto fosse di metallo e avesse una funzione specifica, ma poi ho letto un giorno che è in plastica, che quindi a cosa serve? A fare... non lo so, per estetica, è anche brutta, no? Non lo so, vabbè. C'è l'assidio di metallo, però vabbè, le antenne sono tutte cortocircuitate comunque, già non è problemi che può dare una boomerang vecchio tipo. Io mi ricordo che vedevo uscire le scintille dalla vecchia boomerang mia, perché non era cortocircuitata, era proprio una... Vedevi proprio tra il centrale, la calza, la scoccava la scintilla, però sentivi tac tac. Infatti dovevi staccare in caso di fulmini, di brutto tempo, era pericoloso per il baracchino. Sì, è normale, come si dice, perché dato la pubblica, io poi il fulmine non altro che messa a terra, se becca proprio l'antenna devasta quanto c'è. Ui, per carità. Anzi, qualcuno dice che facendo la messa a terra, non sono parole mie, facendo la messa a terra la rende un parafulmine e il fulmine, se deve cadere, preferibilmente cade lì. Ma no, non è proprio così, però diciamo che c'è l'insight. Vittorio mi pare aveva accennato, Vittorio, ma secondo lui era quasi controproducente fare la messa a terra dell'antenna, perché diventava un parafulmine a tutti gli effetti, poi dipende, poi se deve cadere cademi, con o senza messa a terra. Avevo visto le foto di una villetta con i muri dove passavano i cavi, no? Cavi elettrici, i muri esplosi, cioè il muro proprio si era allargato di mezzo metro e quello che c'era in mezzo, il cavo disintegrato, proprio una cosa impressionante. Ci sono delle cose normali, ti può capitare anche comunque, anche se non è una bella di baracchino, ti può capitare, io ne ho avuto tante. E poi da qualche parte passa, se non passa dall'antenna CB o amatoriale, passa o dall'impianto elettrico, cioè dove trova metallo passa. Mamma mia, mamma di turchi. Vabbè, già, vedi tu, se questa antenna si può vedere, cioè bisogna vedere com'è, in che condizioni è, perché vedi tu. Stavo solo guardando e per adesso mi limito a guardare. Allora, ho messo, Marco, il microfono originale della radio. Mi devi dire più o meno qual è la differenza con l'altro? Forse un tantino più chiara, ma i fatti li ha lasciati come ieri. Capa Roger, sì, vabbè, adesso ho voluto riprendere in mano un attimo questo. E niente, volevo più o meno sentire la differenza che c'era, che non me la ricordavo. Vabbè, più tranquilla. Poi ricordati, non amplifica tantissimo l'M95, quello l'ho notato, non amplifica tantissimo. Infatti io, francamente, per parlare in città preferisco il mic normale. Il mic normale. Non mi interessa nemmeno più degli amplificati, i soldi buttati, per quanto mi riguarda. Vai Claudio, non c'è più, se lo metti la Salyut, la Vector 4000, 9 metri di antenna quasi, non vuoi mettere in antenna quella tutta strana che c'ha, cos'è, una 6 ottavi d'onda, 3 quarti, non mi ricordo. Tanto ce l'hai presente l'ex Salyut che si usava un tempo, no? Che c'è una specie di cono rovesciato che parte dal basso, no? È un anello a un quarto dell'altezza più o meno. Sì, un quarto d'onda però. Ah, risulta un quarto d'onda quello che è radiante, perché praticamente dal cono in sotto non evadiano. Sì, lo amano per un quarto d'onda, ma tipo la ne facevano anche un altro modello, cioè lo faceva anche un'altra ditta che si chiamava 99, però sì, un quarto d'onda, non era neanche mezz'onda. Qua dunque la Sirio, sì, l'hanno fatta con un saccaccio di nomi. Naturalmente dicevano che sparasse alto, aveva un coso di radiazione abbastanza alto. Per esempio la Sirio la dà come 3 quarti d'onda coaxial J-Pol, lunghezza con te 8 metri e 48, 8 metri e mezzo più o meno. Peso, no, siamo sempre intorno ai 5 kg, 4 kg e 7, ogni barasone. Ui. E comunque non pesa niente, rispetto alla lata, perché è molto più corta. No, ma lo sai cos'è, insomma, che prima, tanti anni fa, questo giochetto lo faceva la LEM, cioè io la Sirio è abbastanza cioè dichiara, per esempio una 5 ottavi Sirio 3,5 dBi, quello riferito credo sempre al famoso dipolo isotropico, come si chiama, quarto d'onda che guadagna zero, no? Cioè la LEM ti diceva la 5 ottavi 8, 9, 10 dB di guadagno, ma dove? Cioè loro come le dichiaravano queste misure? In base a quale metro? Forse usavano un diverso tipo di, non lo so, comunque non, 10 dB la può dare una direttiva, 10, 12, posso capire, ma... Non c'è neanche una direttiva, 12 dB, neanche se la spari, direttiva e direttiva, non ce ne avrei mai. Antonio, scusa, ma è qui, volevo un altro parere, ho messo a questa radio ho messo il suo microfono originale dinamico, noti una differenza rispetto a prima quando c'avevo il ZG? Allora Antonio, a te, ho detto prima avevo il ZG, l'M95, quello amplificato, ora ho rimesso il microfono originale della radio, noti qualche differenza? No, io veramente non ho usato nessunissima differenza, cioè anzi il sistema buono quello l'abbiamo, pulita, chiara, ascoltabile. Va bene, ok, avanti Marco. Sì, io nelle stesse condizioni Antonio, ma è che normale, è il Superstar 3009, quello 40 canali 4 watt, e vabbè, tanto l'amplificato alla fine in città non c'è bisogno, ma nemmeno nei DX c'è bisogno, alla fine la banda laterale fa tutto da sé, meglio magari qualche watt in più. E vabbè, già, poi quando potrai fare la spesa, l'importante è una spesa oculata. ho detto, se pigli antenna pesante tanto vale tirantare, se puoi lì, e mi pare sia calpestabile lì, no, no, no, non sei a strapiombo lì, no? Cosa avevo detto, Gianni? Dimmi Anto, che era avanti? Tutto, come vedi detto, c'era la lì. No, Anto, era quell'antenna era di Daniele, l'ho voluta provare, l'ho smontata l'altro giorno, perché con pioggia e umido praticamente la stazionaria ci arriva in maniera abbastanza importante, per cui niente, appurato questo ho rimesso la boomerang, anche quella grande. Io veramente sì, ti ricordo che io la dico, l'ho aggiunta nel 92, era appena uscita, mi ricordo che era l'alternativa. Meno conto che costava 50.000 lire, mentre la macchina costava 130-140, quindi c'era l'alternativa, ma la macchina è stata un po' di tempo. E ho avuto questi problemi. Quindi che cosa è che mi capitava quando c'è molto vento, che non volava abbastanza, e quindi si trovava quel cavetto, cioè mi c'erano portato per collegare il colpo del caldo, collegato al polo caldo a quel mozzo che si va a spirare. Se c'era molto vento si portava la stazione da 1 e 1 a 1 e 3 e 4, però per il resto utilizza un attento, quindi sicuramente si chiama questo problema, c'era una prova all'attento. Oh, avevi la eco antenne, la ringo dell'eco? Copiata con la fita gialla. Eia, sì, mi già il discorso che facevamo. La ringo dell'eco antenne era una buona mezz'onda, con quel design sempre con la spirale fuori, no? Quella che ha fatto la Lemma ha fatto una porcheria. Ha fatto una vera e propria porcheria, pure è semplicissimo lì il progetto. E vabbè, e io l'ho buttato lo stesso, 39 euro a Fusaro, ma per carità, ho resistito un anno, come pioveva la stessa stazionaria, sali scendi, poi si era mollato lo stilo dall'isolatore, no, quell'anello in plastica nero, e quindi rischiava anche, oh per carità, via via, l'avevo regalata a Pomponio come pezzi di così di alluminio. Sì, anche a me ricordo che regalavo qualcuno, io lo prendo, perché mi ricordo l'alluminio, mi ricordo che fosse un po' una città per i cantieri, che comunque avrà il guadagno dall'avanzo, ma però mi difendo bene. Attenzione, binario 10, ascoltate il Lofiurun che chiama, Gabbio! Ogni bozzi già, bello, bello! Ah, è quello da battaglia, oh yeah. Siamo pronti a battagliare sul binario 45, ciao Antonio! Ciao Gian, per ascolta! C'era un profeta. Anche Claudio c'era. Claudio c'è ancora. Claudio sta facendo vedere che di porco è a Puglia. E noi lo vogliamo. Lui è venuto in traffico. Ci parla con noi. Regione infatti. Sì, vedi che stava ascoltando. Non c'ero, sono entrato adesso, quindi non c'entro nulla. No, ma non lo vuoi sta ascoltando, no. Non mi interessano gli argomenti. Sì. Non conosco io a Claudio. Siamo una amica, era un bambino, ma l'ho conosciuto, adesso io che chiamo il gioco. Andiamo a fare le varie. Però è solamente un bambino, ha 17 anni. Sì, vabbè, quanto ne ha 50? No, quanto? Vabbè, ne ho 60, tra un po', quindi. Va bene, dai. No, non mi interessano gli argomenti, non so cosa dire, vi ascolto, ma non riprendo. Fatti. Antonio, un pezzo da 48. Antonio, sei un pezzo da 48. Così dicono già. Così dicono. Pagappa. Ebbene, Marco, che fine avevi fatto? Ti abbiamo aspettato tante volte, ma non entri più. Mammo Susi. Sì, non vi perdete niente già, dai. Lo sai, preoccupazione in casa. Così, dai, quando posso entro. Ma adesso è l'ora della papatoia. E quindi faccio ascolto, dai. Dai, prendete voi. Ok, no, quando posso entro, quando non me la sento non entro, sono in ascolto seppure. Ok. Dai, io vado a mangiare, ok? Riprendete voi, vai Antonio. Antonio Riserva, giusto? Sì, esatto, Roger, sì, ciao. Tu cosa hai combinato con questa stazione? L'antenna ha messo le ali? Sì, lo saluta Marco che sta congelando. Ahi, ciao Marco, ci sentiamo, dai, buona carica. E vabbè, io sono un po' grugabo in fumo, c'ho altri pensieri, Antu, non sono molto, vabbè, cava cava, dai. Roger, vai Gianni, non so come si chiama l'altro Gianni. Perfetto, avanti già. Ciao Doppio Rum, buonasera. Buona entrata anche a te. Vabbè, Marcolino e Claudio, sono in ascolto. Già, siamo qua. E niente, dai, vieni avanti, dai. Vabbè, oggi niente di propagazione. Oh, per quanto mi riguarda, qualcosina stamattina, ma poi è sparita. Ma poco fa sul 45 stavano chiamando, anche furti erano, quello dalla Francia. Parlano con chi vogliono loro questi camionisti. A me mi hanno chiamato anche al telefono, io rispondo. Tanto che non ti ho capito il telefono e buh. Ho detto, a me mi hanno chiamato anche al telefono, io rispondo già. Così è. Beh, forse perché il baracchino non bastava. Quando non risponde il baracchino poi ti chiamano al telefono. Faceva Falcone. Allora. A proposito di Falcone, io volevo chiedere poco fa che sono cercato a Marco Condor. Era il Marco Condor di una volta. Quello, il fidanzato di Falcone. Era lui. Ah, è Marco Condor. Era lui, c'era Marcolino Condor. Bene, se era lui o se un altro magari, sai, un altro grafico simile. No, lui era. C'era Marco Condor, era l'amore di Falcone. Non mi ricordo che faceva la testa anche al nome di Falcone. Ancora vivo e ancora. Che sembra la piazzetta giocando con le macchinette, con queste cose qua. Falcone? Allora. Non l'ho più visto io. Sì, me l'ha detto Antonio, come si chiama? Grode, che lo vede spesso. Sopra, sopra, 60 anni, cosa si fa campare? Ne avrà dei santu, era già grande quando ero un ragazzino. E allora siamo a Sant'Anna, altro me. E ho detto ci fa di campante, non mi serve l'altro, non mi serve lo che ci mettiamo a peggio. Sì, una settantina d'anni ce li avrà, vero Falcone? Sì, Falcone. Ce li ha, 65 li avrà, 65 li avrà. Ma c'è bello grande, c'è bello grande, bello grande, bello grande. Sempre la piazzetta a giocare insieme alla madre, c'è la madre, la sorella, qui alla, così Ripetitivo è deleterio. Cazzo, ti dice ciao, praticamente te lo sta dicendo tutta la Puglia. Marcolino Condor, stavamo ricordando del tuo amore. Non c'è stato nessuno all'epoca, né dei ragazzetti entrati all'epoca. Comunque, che io ricordi, nell'84 doveva compiere 30 anni, se non erano 30 erano 29. Quindi ne ha più di 60 lui, e si vedono tutti, si vedono, quella foto che mi aveva mandato che me l'aveva mandata, è invecchiato di brutto. Peccato, ma io ricordo che adesso nel 92-93 aveva già 40 anni. È stata un'epoca, l'età dell'oro della 27 quella, mamma mia. Poi, dopodiché. Sì, ma è vero che poco fatto, lo volevo chiedere, no? Perché me l'hanno messo impresso, io nei primi anni che ho iniziato a modulare. Mi ricordo di questo Marco di Rocondo, lui era sempre adattato. Eia. Poi certe volte ci mettevamo d'accordo con Piero Drago, no? Io lo facevo sciogliere e qui attaccava Piero, ce lo sai, no? Come attaccava, dice ma perché non spegni? Gli occhi ne facevo uscire, mamma mia. Certe volte abbiamo rischiato, mi siccome ha rischiato l'infarto un paio di volte, ho l'ictus, Paoletto. Ma diceva, non te ne fa la vergogna, brutto porcaccione che non sei altro. Vai, lo dico a tua madre, vai, brutto porcaccione, fate un brodino di marmo. E lui, Piero Drago! Hai finito, c'hai il tuo culo? Ti devo far squillare il telefono tutta la notte. Buongiorno, ma quel Danilo, come dica si chiama, Danilo 26, 18, 26. Sì, era di via Bottego. E c'era la Vagondarino Snoopy, con chi è che non ce l'aveva? Comunque Antos, c'è un sito con le registrazioni di Falcone dell'epoca, di quando schiattava. Il sito, fatelo ricordare, mi pare si chiama Radio Nuraghe o roba del genere. E ci sono praticamente il sunto di varie cassette registrate. L'aveva fatta un CB, uno con un nome mi pare straniero dell'epoca. Sono MP3 solo, io meglio tutti registrati. Te lo ricordo che te l'ho fatti sentire. Che allucinante che era, però è stato allucinante. Solo che vieni a casa tu lo prendo e te lo faccio ascoltare. Ma ti volevo dire una cosa già. Ma un amico tuo che ho visto l'altro giorno, quando sono venuto a casa tua, ci sei? Marco. Ma quello lavora lì al vicino alla questura, in quel coso del riciclo. No. Allora il fratello Albino, lui lavorava agli impianti della gomma alla zona industriale. Il fratello lavora lì, Albino. Cazzo, perché stamattina l'ho visto, detto cazzo. Eppure, ci siamo visti, abbiamo chiamato, che neanche mi saluta. Sono uguali sono. E vabbè, Albino il fratello. Sono tutti precisi in famiglia, si assomigliano anche le sorelle, sono tutti col viso del padre. Ho capito, no, ci ho visto l'altro giorno. Sono con pochi anni di differenza, fratello, c'hanno, mi pare 2 anni. E si assomigliano tutti un mese. Lui, il fratello, è responsabile di praticamente quello che ti dice dove andare a buttare la roba, in quale cassonetto, eccetera, eccetera. Infatti, l'ho visto, ho detto, infatti, quello che mi ha regalato, ho detto, cazzo, fanno messo, ho visto l'altro giorno, mi saluti. No, si assomigliano, Albino, il fratello, quello lì. No, lui lavorava all'impianto gomme alla zona industriale, con Franco Di Sorso. E qui cosa hanno fatto? L'hanno chiuso? No, lui praticamente è invalido da un incidente che ha avuto, l'hanno fatto inabile al lavoro e quindi ha dovuto smettere, ma dice che sta andando male anche con l'impianto. Ho capito, che cos'è che non va male qua? Va male un cazzo, qua non va bene niente. Siamo a perdere anche tu, è un discorso da non fare quello. Infatti no, non ci voglio neanche, non mi voglio neanche soffermare un attimo, perché abbiamo dovuto una portata per esempio un capo, se vogliamo mettere questi cazzo di problemi. A volte vado a cercare i negozi che mi ricordo per dire lì ho comprato quello, vado a cercarlo e chiuso, vado a cercare l'altro e chiuso, che boh, se mi è andato, ti si arrabbia, se ti si arrabbia anche. Come lo stai dicendo? Io ho acquistato per 30 anni componenti elettronici in tutta Italia, allora non c'era il BEI, non c'era le spedizioni del PES, non c'era... comunque si pagava sempre i soldi, dovevi ordinare quattro casette posso pagare 10 euro, però se arriva a Napoli ci avete tutti quelli che io avevo come direttore, stanno tutti che hanno loro, stanno chiedendo tutti. Sì, no, è così, anche a Sassari. Vai a cercare uno è chiuso, vai a cercare l'altro è chiuso. No, non si sa, siamo trasferiti, se, ma penso proprio che non, non stiamo più lavorando come a voi. È una cosa triste, vedete, quelli che ci sono aperti sono tutti sulla porta con le braccia conserve. Ma è normale, già io quando ho preso il vado, la fusata, sono qui, questo non ce l'ho, quello non ce l'ho, vediamo terminati, non c'è, cioè alla fine cosa cazzo fare? Cioè non penso, vai sui petroni, due giorni ti arriva, fa pure, non è che devi stare lì, non ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Poi uno non deve aspettare che finisca la roba, quando vede che sta per terminare ne ordina altra, se no poi rimane senza. Vabbè, ma allora io li capisco che comunque se tu devi fare testa da quello che è, che non è passato, per esempio, noi siamo stati tanti anni che c'è la vaga flusso di frequenza, di popolazione, perché è stata comunque la tenda che era rifusata. C'era un filato lì per comprare a te, perché poi non si è fatto, ma non è vagolino, infatti io ordinava, poi c'è stato un calo e loro dicono, non è che io mi posso ordinare, perché adesso 10 a me, vengono che non vuole comprare nessuno, ormai quelle cose sono finite. Capisco le antenne, le cose grosse, ma i componenti devono averli e molte volte non ce l'hanno manco qui. No, no, no, neanche i componenti di 10 anni fa, perché io molte volte mi capo di andare a chiedere condensatori ceramici che costano un centesimo l'uno, non ne hanno. Sì, è così, è vero. Poi la GBC non è di parola, ti dice che ti ordina la roba, poi passano mesi, dice mi la prossima settimana la faccio arrivare, passano mesi e alla fine quando ti incassi ti dice ma io non posso fare l'ordine solo per te, ah scusa dimmelo, no, te lo pago io il viaggio, cosa vuoi che ti dica, però non mi puoi dire che arriva questa settimana e poi ci sono 3-4 settimane diverse e non è arrivato e dopo c'è il coraggio anche di dirmi non posso ordinarla solo per te, una volta ho detto facciamo una cosa, tienitela la roba, io me la sto ordinando da internet, e tanto lì non ci hanno, non è con la garanzia, e quello lo dici tu, detto, mi mandano scontrino, fatture e tutto. Sì, ma infatti il problema loro, lo sai cos'hai, cioè loro ti dicono, non ti preoccupare, te lo ordino, ad esempio se ti piace un apparecchio, qualsiasi cosa, te la ordino. Però non è spediscono ordini fin quando non hanno 10, 15, 20 cose da ordinare, perché loro lo pagano una spedizione, non è che si possono giocare che chi la spedizione per te. Quindi come è che l'ho ordinato? Passa una settimana e non c'eravamo disponibili, ma queste cose le abbiamo fatte tante volte e noi ormai le conosciamo in funzione, per quello che ci ordiniamo, quello che vogliamo. Ma eBay, ci paghiamo i nostri 5-6 euro di spedizione e loro se la pigliano nel culo. Anche pagando la spedizione è sempre meno di quello che la vende lui, perché un Midland Alan 48 lui stava vendendo 100 euro in più, capito, di internet, lo stesso apparecchio, e io pagando anche la spedizione l'ho pagato meno di quanto lo vendeva lui. Sì, ma quello si sa che comunque anche io ricambi per la macchina, tutto quello che mi serve, a parte la roba elettronica che ormai sono 10 anni e anche di più che non conto più niente, che ordino tutto, poi ogni tanto vai lì, ci perdi tempo, ci perdi benzina, vai lì, una cosa l'altra non ne ho, allora apro l'apparecchio, devo fare questa riparazione, so che questo qui, quello che c'è è partenza, ma chi mi ha dato l'apparecchio? Guarda, io devo ordinare da fuori, ci vogliono 5-6, al massimo 8 giorni. Ti va bene o non ti va bene? E basta. Io ti sto di no, non conviene più, di cui buttare, dopo ti dicono non ci sei più venuto a comprare niente, andate tutti quanti a comprare su eBay, perché ti loro lo compri da eBay, non lo comprano da eBay, poi li vengono a noi. Eh beh, io ho un'amica che fa questo lavoro, compra vestiario e lo rivende qua, lo compra su eBay e poi lo rivende, c'ha i clienti e rivende nelle case. È così, Gianni Profeca, abbiamo lasciato le partite, ce ne siamo arrivati in casa. No, Gianni, così magari sei stato su 45. Fare di ex? No, oh, anzi. C'è rimasto qualcuno qua oltre a noi due? Ma la palanca e niente, non c'è nessuno. E quindi è così, già. Non sarà così. E lui che aveva una volta che dice, anche tu, prima comprato, poi te ne sei andato. Adesso un giorno mi ha detto, aspetta che ho preso le scatole, un giorno mi ha detto, dice, c'è... voi tecnici per essere andati tutti quanti a fare gli elettrici, che cazzo la se non c'è lavoro il capo dobbiamo fare, vieni a piangere a casa tua. Allora, io sapete cosa dico, io faccio la pellicola e la riprendo più tardi. Ciao! E via, ciao ciao, più tardi. Quasi spariti siete. Hai Caruccio? Caruccio, se tu sei che mi cambi tempi, cambi tempi. E beh, Antone. Dimmi tutto. Ti stavo chiamando l'altro giorno. E Ciccia, quella non mi ha risposto. Sto qua la cussi, sto qua la giù, sto qua la giù. Quanto stavo da letto, avevo l'acqua, avevo l'acqua, a posto di pisciare la pisello, la pisciavo la pisello, la pisciavo la... Che cazzo, cavolo di sacco brutto! Ecco, brutto dopo dito questo, l'altro dopo letto, l'altro dopo letto, l'altro dopo letto, l'altro dopo secondi che non mi ricordo più, ne avevo, era, non guarda adesso, adesso non c'è. Di russo, aspetta che c'è una bassa. Eia. Antone. Dimmi. Cappa di Rosmetro, ti stavo dicendo. Io ti stavo chiamando per dirti che prima del 24 quella roba forse non ce ne dà a noi. No, lo so già, non è che ce l'hanno prima del 24, lo sanno proprio. Allora, maggio, giugno, niente. A luglio non si sa. Perché stanno aspettando una... in pratica un, non so se un fax, una cosa digitale da parte dello sviluppo economico dove c'è Di Maio, che lo deve dare alla regione, poi la regione poi deciderà se darlo oppure no, hai capito il Renzi, a chi c'ha il reddito di cittadinanza, tutto lì, hai capito? Perché c'è se vai nel sito del comune lo leggi tranquillamente. Basta che guardi il reddito di cittadinanza nel computer e c'è scritto così, che bisogna aspettare 2 mesi e hanno bloccato tutto provvisoriamente. Cava cava, sì è così, perché c'è un'incongruenza tra le due cose. Ehi vabbè, vediamo cosa vogliono fare. Ah beh, ci vorrebbe volare perché il contratto era 9 mesi, non la volassi a 9 mesi come l'ho scritto, era per 9 mesi, non per 6 mesi. Quindi siccome io la questione in pratica è partita da qui, perché c'è scritto là che noi abbiamo fatto la domanda nel 2017 con Rei e quindi ci hanno dato il Reisi, da Reisi poi passato al reddito di cittadinanza, hai capito? Senza dire niente. Quindi a un certo punto devono fare tutti i conteggi dell'ISE del 2018 e poi quelli dal 2018 al 2019. È un casino in pratica. Va bene. Ok. Tanto, sempre loro l'hanno vinta. Scusate, c'erano sempre, già lo sai. Però intanto le zingare i soldi erano lo stesso. Hai capito? Non so se è quello lì. E il fatto che noi siamo proprietari di appartamento, per dire, però se fosse stato un affitto, quello ti toccherebbe, perché con quello che ti danno ti paghi l'affitto, con 400 euro, per dire, per Reis, hai capito la questione? Quindi danno in pratica a chi ha bisogno di pagare l'affitto, cioè agli extracomunitari, dopodiché agli zingari, e noi non accettiamo proprio niente. Adesso bisogna vedere cosa vuol fare Salvini. Di Maio ha detto una cosa, poi ne ha fatto un'altra, perché c'è gente che piglia 40 euro solo di reddito di cittadinanza. Poi vediamo, adesso che ha preso la susta, vediamo come la mettiamo. Forse l'ha capito a capire le cose. Hai capito? Quindi a un certo punto vedrà che tu diranno i soldi a tutti, 780 euro a tutti e tu diranno re, se lo dico io. A meno che Di Maio non voglia diventare come Forza Italia, all'8%. Cioè se d'accordo, fino a un certo punto può prendere per il culo italiano, perché l'italiano piglia si gira, l'abbiamo fatta apposta. Ci hanno compreso già, a posto di votare a lui, ha votato il PD. Cava, cava, va bene, tanto è. Adesso mi devo spostare. Già sono qua in ascolto, dai, che sono giù a fare una cosa col piccolino, ci sentiamo dopo. Ehi, d'accordo, a dopo, da che io sto facendo dei controlli adesso questo baracchino qua, che mi aveva dei difetti, però a me non me li fa adesso, strano, a me non me li fa. Allora vediamo, lo sto provando da ieri. Cava cava, va bene, va bene. Ok, dai, già sta acceso qua. Ci sentiamo dopo. Ehi, d'accordo, dopo, dai, ciao. Ciao, ciao. C'è qualcuno su 10? Hola. Attenzione, canale 10. No, non c'è nessuno. Chi è? Gianni, lo controllo, Gianni Doppio Russo, avanti. Lo controllo voi. Controllo Radio Santiago, grazie. Ascolta, di cardiopatia 610 per 25 di frequenza. Te ne comprendi nulla, Antonio. 9.10 sei già, Radio 5 già. Grazie Antonio, grazie. Dai, stavo provando una cosa. Andà bene, a non sbidere, sentiamo, show. Okay. Ciao. Okay. Attenzione l'amico Andrea da Bergamo, attenzione l'amico Andrea da Bergamo, avanti. Là. Ciao Gianni. Ciao già. Il testo di Bergamo, non si sente. L'ho sentito sul set, mi ha detto di passare qua. Vediamo un po', attenzione, canale 10. Bergamo, ci sei, K. Nada de nada. Siamo sul set. Eravamo lì. Gianni, sul set. Gianni, ci sei. Attenzione sul canale 10, ascoltate il doppio rum che chiama, cambio. Cambio. Gianfranco, ci sia l'ascolto. Aspetto Gianfranco. Aspetto Gianfranco.